You're already familiar with two methods of payment. Con carta di credito. By credit card or in contanti. With cash. Another option is to pay with a traveler's check. Con un traveler's check. Sì, ma in italiano? Un traveler's check. To inquire if you can use credit cards or traveler's checks, you ask, posso pagare con carta di credito? Posso pagare con un traveler's check? Or you can ask the following questions. Listen and repeat. Accettate le carte di credito? Accettate i traveler's check? Sometimes, of course, there are problems with the food, with the service, with the bill, or even with how to pay. To illustrate the last one, here's a scene between a waiter and two satisfied customers. Before you hear it, some new words and phrases. Come al solito, ascolti l'italiano, poi l'inglese, di nuovo l'italiano e ripeta. Accettiamo alcune carte di credito. We accept some credit cards. Accettiamo alcune carte di credito. Il ristorante non accetta i traveler's check. The restaurant does not accept traveler's checks. Il ristorante non accetta i traveler's check. La cena era squisita. Dinner was delicious. La cena era squisita. Questo ristorante è veramente carino. This restaurant is really nice. Questo ristorante è veramente carino. Here are those phrases again. Accettiamo alcune carte di credito. La cena era squisita. Questo ristorante è veramente carino. Il ristorante non accetta i traveler's check. Ed ora ascolti il dialogo. Scusi? Sì, signore. Il conto, per favore. Subito, signore. La cena era squisita. Eh sì, era molto buona. Grazie. Ah, questo ristorante è veramente carino, vero caro? Sì, veramente molto carino. Ecco il conto. E il prezzo è anche ragionevole. Guarda, cara. Sì, per niente, caro. Hai tu i traveler check, vero? Ah, sì, ecco. Ah, no, mi scusi, ma il ristorante non accetta i traveler check. Ah, no? No, signore. Peccato. Ma caro, tu hai la mia carta di credito? Ah, certo, meno male. Ecco la tua carta di credito. Scusi, signore. Sì? Mi dispiace, ma... Mi sta dicendo che non possiamo pagare con la carta di credito? No, signora. Accettiamo alcune carte di credito, ma non questa carta. Non capisco. Accettate le carte di credito, ma non questa carta. Esatto, signore. Non possiamo accettare questa carta. Forse lei ha un'altra carta. Un'altra carta? Sì, signore. No! Non abbiamo un'altra carta. Mi dispiace, signora. Ma cara, hai dei contanti con te, vero? No, caro, e tu? No, niente.